per me, come fanno un po' tutti. Sembra sempre un po' troppo quello che non ho fatto, e non mi basta mai, niente mi basta mai, tutto quanto non basterà mai. C'è qualcuno che può regolarmi il difetto. Comunque lo sai che ti vengo a cercare, che sono nato per me, ma mi frega l'amore. Vieni qua e dimmelo, vieni qua che lo so, che a tua volta sei nata per te. Ci possiamo vedere, ne possiamo parlare. Era sfiga o fortuna. Tutto quello che ho, tutto quello che so, tutto quanto fa ridere un po'. Sono nato per me, sarà mica il sistema. Dipende da me, dipende da te. Quattro ore al giorno.